felice non è felice. Nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. State ascoltando Radio Lorem. Esistere o non esistere? Questo non è il problema. Avere o non avere? Ma questo è un diritto. O anche un dovere, se è più nobile. Per l'attore e l'attrice svendere la maestria della poesia accettando contratti d'ogni sorta o cercar fortuna bussando con il cappello in mano di porta in porta sognare uno stato dove l'attore sia considerato e che nessuno giammai ci chieda scusa ma tu di lavoro che fai? Benvenuti a una nuova puntata di Radio Lorem Oltre le Quinte. Parliamo del mondo dello spettacolo, parliamo di teatro, parliamo di cultura e sì, parliamo anche di lavoro. L'emergenza Covid ha fatto paralizzare, ha di fatto paralizzato un intero sistema che però, come ascolteremo, non se la passava granché bene neanche prima, neanche in precedenza. Ne parliamo con i nostri due ospiti, gli attori Ascanio Celestini, benvenuto Ascanio. Bentrovati, salve. E Marco Cacciola, benvenuto Marco. Grazie, grazie. Saluti a tutti. Allora, dopo la sigla iniziale abbiamo ascoltato un estratto della campagna Esistere e non esistere, portata avanti da CGL e Attrici Attori Uniti per, in occasione del 1 maggio 2020. Esistere e non esistere è già dal titolo eloquente, emblematico. Partirei innanzitutto da Marco Cacciola, che appunto è membro di questo gruppo, di questa nuova organizzazione Attrici Attori Uniti. Ti chiederei, Marco, di partire già da prima dell'emergenza Covid, diciamo attori, registi, tecnici, in generale tutti i lavoratori del mondo del teatro esistevano e se sì, come? Sì, esistevano, vivevano, sopravvivevano, sussistevano, nel senso allora, il nostro paese è pieno di straordinarie professionalità e competenze, ciò che manca è da tanti anni un sostegno vero, un sistema di tutele fondamentalmente che quindi ci rende molto fragili, siamo una categoria molto fragile perché diciamo non abbiamo quelle fondamenta che magari in altri paesi europei permettono di fare il proprio mestiere anche un po' in tranquillità, nel senso che il nostro lavoro, che spesso è non è solo quando noi apparentemente lavoriamo, così come il grande pubblico immagina, ma è fatto di preparazione, formazione, studio, progettazione, eccetera. Tutti quei periodi sono periodi in Italia non sono considerati, mentre invece in altri paesi questo periodo di cosiddetto non lavoro invece comunque è tutelato da un sistema anche banalmente di welfare. E questo sembra una cosa solo tecnica, ma in realtà ti permette di fare il tuo lavoro con quella serenità che è tipica anche, no? di una ricerca, insomma, che non deve diventare spasmodica come in questo mondo, insomma, così competitivo e frettoloso, ecco. Sì, benissimo. Allora chiedo ad Ascanio Celestini, come attore che sta vivendo, che ha vissuto e sta vivendo questa situazione in particolare. Appunto Marco parlava di periodi che in certi casi non vengono considerati. Questo periodo che cosa vuol dire per un attore, in generale per un artista, appunto a partire dal piano artistico e poi strettamente legato dal piano lavorativo? Ma sai, la questione del piano artistico, io ne tendenzialmente parlerei anche poco, perché poi diventa un po' una trappola. Come dire, subito dai primi giorni io ho sentito, letto commenti di artisti che qualcuno diceva è un bene che ci fermiamo per un po' perché così possiamo riflettere sul nostro lavoro. e a me una cosa del genere, boh, insomma, suona un po' come dire: è un bene che vi fermiate voi, colleghi artistici. Perché cioè, se un artista si vuole fermare, si ferma. Cioè, l'ultimo problema per un artista è fermarsi per questioni artistiche. Poi non si ferma per tanti motivi, insomma, non si ferma perché c'ha bisogno, c'ha un'emergenza, perché sente di poter andare avanti, e non si ferma perché questo è un lavoro e quindi continua a lavorare comunque. Altri hanno addirittura scritto in questi giorni di chiusura che nessuno si azzardi a scrivere di questi giorni di chiusura, appunto, del Covid. Vabbè, insomma, ognuno ha, diciamo, espresso un po' le proprie idee. Per cui non parlerei tanto di questo, quanto del fatto che, come dire, noi ci confrontiamo da sempre e in modi diversi nel corso del tempo con questa cosa che è il vivere, cioè nel senso di avere una famiglia, avere una casa, pagare bollette, roba del genere. E quindi alcuni hanno cercato proprio delle modalità produttive, e parlo di me per esempio, cioè io da quando ho iniziato ho sempre pensato che questo lavoro sarebbe stato il mio, che questo sarebbe stato il mio lavoro e che avrei fatto l'impossibile per riuscire a non fare altro. E non c'avevo una famiglia che mi sosteneva, cioè moralmente sì, anche da un certo momento in poi, all'inizio neanche tanto moralmente, però diciamo da un certo momento in poi mi sosteneva moralmente, però diciamo economicamente non dovevo lavorare, se non era questo sarebbe stato un altro lavoro. E ho cercato, come cercano tutti gli artisti, di non farne altri di lavori che portassero via tempo. C'era una cosa che diceva Fabrizio D'André, vabbè, non per citare per forza D'André, però sembrava azzeccata, insomma, lui diceva: non ho conosciuto nessuno che tra i 16, 15, 16, 18 anni, 20 anni non abbia scritto delle poesie o delle canzoni anche belle. E se poi però dopo lo trovi il tempo per continuare, insomma, a scrivere poesie, canzoni e via discorrendo. E dice: quando torni alla fabbrica, che hai passato una giornata in catena di montaggio, è difficile che riesci a trovare il tempo per scrivere una poesia, insomma, una canzone. E quindi, ecco, diciamo, come tanti altri artisti, ho cercato di fare in modo che questo fosse il mio lavoro 24 ore su 24, anche perché poi quando facciamo un lavoro come questo inevitabilmente non c'hai un orario del non lavoro, cioè un momento nel quale non lavori. È un po' una trappola, anche, però è anche una delle cose belle del lavoro che facciamo. Noto che in questi anni sono cambiate delle cose, cioè c'è da dirlo che 20 anni fa questo era un lavoro che buona parte, diciamo, le economie di questo lavoro giravano in nero, cioè era la consuetudine andare in un posto e prendere i soldi in mano, proprio, insomma, il rotolino dei soldi più o meno grosso, cioè, a seconda di quanto ti pagavano. E c'è stata una bella fase nella quale come dire, strutture anche importanti richiedevano di lavorare con partita IVA, per esempio, e questa fase non è ancora finita. E ve lo voglio dire, insomma, perché poi sull'autonomia, diciamo, di un artista ci sarebbe molto da dire, però lavorativamente neanche Robert De Niro, che fa Toro Scatenato, è un lavoratore autonomo, nel senso che anche lui è un lavoratore subordinato, è subordinato come può essere subordinato Robert De Niro, insomma, però se Scorsese gli dice: tu stai in pantaloncini su un ring, Robert De Niro sta in pantaloncini su un ring, non può dire: io sono Robert De Niro e metto la maglia da Roma, per dire, insomma, perché anche lui è un lavoratore subordinato. Per cui, come dire, quotidianamente noi ci troviamo davanti ad una forbice proprio. Da una parte c'è quello che fai, dall'altra c'è come sopravvivi, come ti pagano. E quindi questo momento qui sarebbe il momento buono per dire: tiriamo fuori il teatro dai soldi passati, tirati fuori da una tasca e messi in mano a un artista. È chiaro che più si sale, più si va verso uno spazio, come dire, istituzionale, importante, a prescindere dal valore artistico, insomma, e meno questo succede, ma è veramente solo un accidente, insomma. La maggior parte degli artisti si trovano quotidianamente a vivere in un limbo dove non sembra che questo sia veramente un lavoro. E quindi quando, e chiudo il mio intervento, compagni, quando davanti, insomma, alla richiesta di 30 giornate, di 30 repliche per accedere, insomma, al beneficio dei 600-800 euro esentasse, un lavoratore qualsiasi resta stupito, pensa: ma possibile che questo qui fa l'attore? Quando gli chiedi: ma che lavoro fai? E lui risponde: veramente faccio l'attore, ha lavorato 30 giorni l'anno scorso. E questo, insomma, dovrebbe interrogare un po' tutti, e sarebbe il momento buono di cominciare a tirar fuori questo il teatro da questa palude che non permette ai teatranti di fare questo lavoro. Spesso sono i teatranti stessi che tutto sommato accettano questa condizione, però di fatto è una condizione che, vista oggi con gli occhi di chi parla un po' meno d'arte e parla un po' più delle condizioni lavorative, è una condizione veramente, veramente assurda, insomma. Posso aggiungere una cosa? Mi permetti, perché mi ha fatto venire in mente, cioè, questa palude di cui parla Scagno, è questo infatti l'occasione, non so che sembra un paradosso, ma l'occasione di oggi, perché questa palude si è prosciugata adesso, no? Sono venuti fuori gli scheletri, e come giustamente dice Scagno, molte persone che godono di questo mestiere, di questo lavoro, in maniera superficiale, ma non è un giudizio, nel senso che vedono l'opera fatta, no? L'opera finita, si domandano appunto come è possibile che dei professionisti non abbiano lavorato almeno 30 giorni. Ed è proprio questo sistema di cui parlavo prima che non è un sistema giusto, va proprio detto, non solo non è adeguato, non è normato, ma non è proprio giusto, nel senso che mina profondamente una cosa fondamentale dell'essere umano, e cioè la dignità di queste persone che sono lavoratori e che magari perché insegnano e sono dei super formatori, non è che insegnano solo perché non fanno gli attori come spesso si pensa internamente al nostro ambiente, ma magari sono super formatori teatrali, ma le loro giornate non sono riconosciute, perché per uno strano inghippo in Italia vai a versare nella gestione separata, che quindi potrai recuperare solo alla fine della tua carriera per la pensione, ma durante l'anno non ti risulta nulla. Se lavori all'estero, ed è sempre più facile che ciò avvenga, ma basta pensare in Svizzera, cioè ci metti un attimo da Milano, dove sto io, in 45 minuti sei, e succede sempre di più, ma quei lavori non vengono considerati, perché vengono solo anche quelli convertiti, come si dice, alla fine della tua carriera. Se tu fai audiovisivo, cioè se tu fai un film e hai fatto 25 pose, vuol dire che sei un super protagonista, ma non arrivi a quei 30 giorni, ed eccetera eccetera, e queste persone sono state totalmente escluse da questi, appunto, da queste briciole, poi diciamocelo, di questa indennità di 600 euro che sono veramente il nulla, ma che per alcune persone comunque rappresentano una minima speranza anche solo di fare la spesa, perché poi sembra retorico, sembro Ugo nel 1840, ma dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, quindi il pane del pensiero è anche in quel momento pane della vita vera. Sì, io mi vorrei, diciamo, collegare anche a questo, quello che diceva anche prima Scanio, diciamo, il momento buono, e te Marco parlavi di dignità, in un settore che comunque, appunto, in questo momento specifico, con una crisi economica che si preannuncia gravissima, quasi mai vista, un calo, diciamo, stimato del PIL per quest'anno in Italia tra il 9 e il 10%. Diciamo, come può, secondo voi, il teatro essere uno dei punti all'ordine del giorno della politica, se la politica, un motto quasi famigerato in alcune fasi, è stato quello con la cultura non si mangia? Se non si mangiava di cultura neanche prima, adesso com'è possibile? Lo chiedo prima a Marco, poi da Scani. Guarda, ti rispondo con i numeri, così facciamo sempre così il ping pong di quelli che dicevano queste baggianate. Cioè, a parte che il 7% del PIL in Italia viene dalla cultura, e se ci metti il turismo diventa il 20%, e spesso il turismo non è vado in spiaggia, vado in una città d'arte o vado a Siracusa a vedere le tragedie o le commedie o comunque all'Arena di Verona o da qualche parte, quindi c'è una fetta enorme, un indotto dietro che se uno ci pensa semplicemente a tutte le compagnie o i singoli artisti che viaggiano, mangiano e dormono in giro, c'è tutto un indotto enorme, quindi già questo fa capire che in realtà i numeri sono molto diversi da quelli stimati, cioè non è la percezione della signora ingioiellata che va all'opera una volta l'anno, ma c'è veramente dietro un mondo di circa 300.000 persone che lavorano e producono proprio economia anche, oltre che socialità e benessere psicofisico, insomma, oltre che economico. Ma poi cioè, diventa anche un po' quelle cose da citazione, però in ogni momento della storia in cui c'è stato un dramma forte, una caduta, ogni paese si è risollevato grazie alla cultura, cioè questo è storico, la funzione sociale proprio creativa e anche di costruzione che ha avuto sempre la cultura è evidente, dal 29 in America, al dopoguerra, c'è sempre stata una carica proprio non solo immaginifica, perché da sempre si dice cioè, per ricostruire un paese ci vuole la forza visionaria dei poeti e dei filosofi, ma anche perché molti sono in grado non solo di immaginarla, ma proprio di progettarla e costruirla questa rinascita. E la cultura, lo si sa, sia in termini proprio emotivi, tira su le persone, quindi li fa stare bene, li fa stare meglio, ma è un volano enorme di pensiero, di costruzione e anche economico. Quindi banalmente cioè, la politica, almeno quella che capisce davvero e succede in moltissimi paesi del mondo e d'Europa, è pochissimo in quello che fino a 3 secoli fa era la superpotenza culturale del mondo, e questo è un paradosso, quella che il paese che viene riconosciuto nel mondo la cultura eccetera eccetera, mo è il cibo, non è la cultura che sembra essere, no, Italy riconosciuta nel mondo, ma se ci fossero dei politici davvero con un po' di visione, cioè che guardassero al di là del loro piccolo naso o grande in alcuni casi, che serve solo ad essere riconfermati o rieletti, capirebbero che si parla di investimento, cioè di qualcosa che restituisce, ed è questo un dato, per ogni euro speso in cultura ritorna allo Stato 2,5, cioè più del doppio. Chiedo la stessa cosa, diciamo, a Scania, non so se vuoi... Sì, sì, sì, no, ma rispetto a... appunto all'investimento sulla cultura. Prima cosa, l'investimento sulla cultura, noi come dicevate voi, come diceva Gianmarco, noi l'abbiamo fatto, non noi e non come dire la classe politica dirigente degli ultimi decenni, però è stato fatto appunto nei secoli scorsi l'investimento. Noi abbiamo le infrastrutture, nel senso abbiamo centinaia di teatri, migliaia di piazze, noi ce l'abbiamo già le infrastrutture, per cui voglio dire, per fare le Olimpiadi bisogna costruire stadi eccetera, ecco, per fare come dire produzione culturale in Italia noi le strutture già ce l'abbiamo, abbiamo appunto una quantità enorme, teatri costruiti per essere teatri, cioè nel senso costruiti per farci spettacolo e quindi e veramente ovunque, insomma chi vive facendo spettacolo e girando in tournée si rende conto di come dire anche proprio il mercato del teatro in Italia non è fatto soltanto dai festival o dai grandi teatri cittadini. No, ma è fortunatamente un mercato, almeno soprattutto nelle potenzialità purtroppo, ma insomma anche in parte nella realtà, è un mercato molto molto ricco, molto mobile, nel senso faccio degli esempi, ci stanno i teatri nazionali da poco istituiti, che nascono da più o meno dalla trasformazione, in parte a volte dal mascheramento dei teatri stabili, eccetera. Però ci stanno gli spazi nei piccoli centri, penso, non so, Correggio, il teatro di Correggio è un teatro che viene gestito La programmazione artistica di questo spazio all'italiana, come tanti altri bellissimi spazi in Italia, è gestito da due persone che lavorano nel pubblico, quindi neanche direttori artistici scelti perché registi famosi o organizzatori di grido, insomma, o piazzati lì dalla politica. Due persone che lavorano, insomma, per quello spazio e che, quando è possibile, cercano di chiamare una compagnia per 2 giorni di seguito. Allora, sempre parlando dei numeri, come ha fatto Marco, insomma, un teatro di 500 posti, in un posto come Correggio, che ha credo 25.000 abitanti, significa un'esagerazione chiamare una compagnia per 2 giorni. Ma loro sanno perfettamente che se chiamassero una compagnia per un giorno, potrebbero arrivare a riempire il teatro e per alcune compagnie anche lasciare qualcuno fuori. E questo sarebbe un piacere per la politica, perché l'assessore alla cultura di Correggio potrebbe dire: il nostro teatro è sempre pieno. Invece chiamare la compagnia per 2 giorni significa che è molto facile che 2 giorni il teatro non sia pieno nessuno dei 2 giorni, e probabilmente che sia mezzo vuoto o 3/4 vuoto per entrambi i giorni. Però aprire un teatro per 2 giorni invece che per 1 giorno significa comunque dare la possibilità a qualcun altro di andare a teatro. Un esempio: se per 2 giorni vengono 600 persone, per 1 giorno più di 500 non ci sarebbero entrati in quello spazio. Allora quelle 100 persone in più è una grande ricchezza. Un teatro aperto in una grande città, ma soprattutto in un centro più piccolo, significa, e uso le parole di un ristoratore San Pier d'Arena, che c'ha il mago del riso, mi sembra si chiama, c'è il ministro del riso, il capitano del riso, San Pier d'Arena, a 50 metri da un altro teatro italiano molto bello, che è il Gustavo Modena, adesso parte del Teatro Nazionale, appunto, ex Teatro Stabile di Genova, gestito storicamente dall'Archivolto. E in quello spazio lì, il primo giorno che arriviamo lì per fare spettacolo, il ristoratore, che non va a teatro, dice: meno male che è aperto il teatro, perché quando è aperto il teatro gira gente normale qua attorno, che magari per un artista può essere non tanto un complimento, insomma, come normale, però significa che quel giorno lì non è sicuro, ma è probabile che se incontri lo studente che c'ha il biglietto ridotto, col magistrato che paga la poltronissima, i genitori che portano per la prima volta a teatro il figlio quindicenne, cioè si incontra un pezzo della società che non è, come dire, un insieme chiuso, ma è un insieme dei frammenti, delle sezioni, delle parti diverse della società. Per cui dico, noi le infrastrutture per la cultura, fortunatamente per noi, ce le abbiamo, perché sono state create, ripeto, teatri, piazze, ma anche tanta campagna, perché noi abbiamo fatto spettacoli ovunque in Italia, appunto, dalle campagne ai castelli e via discorrendo. Per cui noi l'infrastruttura, l'hardware, come dire, ce l'abbiamo già. Investire sulle infrastrutture che già esistono è come organizzare le Olimpiadi, quindi con gli stadi già tutti costruiti, insomma, gli stadi dei centri sportivi già tutti costruiti. In più, rispetto per esempio a quella che è l'attività dei festival, in questo paese, negli ultimi anni i festival sono aumentati, stranamente, manco tanto, si sono molto indeboliti invece i festival di teatro. C'avevamo alcuni grandi festival che sono diventati sempre più piccoli, fino a diventare quasi invisibili. C'era anche un festival degli invisibili, ma era un'altra cosa, insomma. E mentre si sono moltiplicati i festival letterari, per esempio. Alle volte lo dico, come dire, en passant, così banalmente, perché uno scrittore, portare uno scrittore a presentare il proprio libro costa decisamente molto meno che portare uno spettacolo, per forza le cose. E questa è spesso anche concorrenza scorretta. Però voglio dire una cosa: Marino Sinibaldi l'anno scorso al Festival del Teatro di Mantova, un festival importante, creato realmente dal basso, cioè da dei librai della città, hanno fatto un festival invece importantissimo a livello internazionale, e Marino diceva: ma qui viene un sacco di gente, partecipano e riempono tutti gli incontri, ma non si vendono tanti libri. E lì discutevamo se questa fosse una cosa buona o cattiva. Certo, per chi vende libri non è una cosa buona, ma insomma, però, come dire, quelle persone, tante persone, si muovono alla ricerca di un popolo capito? Un altro, un tizio al bar l'anno scorso a Torino, un altro insomma, incontro che non ci sarà quest'anno, ci sarà in maniera molto diversa, alla Fiera dei Libri di Torino al bar mi dice: ma io almeno quando sto al bar qui alla fiera, se mi giro a destra o a sinistra parlo con delle persone con le quali ho voglia di parlare, più che al bar sotto casa mia. Cioè sono dei luoghi di resistenza vera, culturale, importante, nei quali circolano decine, centinaia di migliaia di persone, insomma, e l'importanza, e vanno, io non voglio dire come dice Marino, vanno senza comprare il libro, vanno anche se non devono comprare il libro, perché il libro lo compri, se sei fortunato, nella libreria sotto casa, se ce l'hai, insomma, se è ancora aperta. E lo compri, lo acquisti online come le patatine fritte che ti portano a casa, ma lo scrittore lo incontri lì, e se prendi, se esci di casa, acquisti un biglietto, addirittura prendi un treno e ti trovi una pensione per andare a dormire a Mantova o negli altri mille festival, da quelli più importanti, io so, Pordenone, Gavoi, nella sperduta Sardegna, e via discorrendo, è perché realmente c'hai voglia di partecipare alla vita di quella comunità in viaggio che gira tra festival, musei, che vive appunto quelle infrastrutture straordinarie che ci hanno lasciato in eredità, insomma, i nostri avi. Per cui, voglio dire, cioè, se noi investiamo in quello, che è un settore che c'è ancora e non inquina, insomma. Cioè, se preoccupiamo di chiudere l'Ilva, però noi chiudiamo tranquillamente, come se niente fosse, migliaia di spazi della cultura in questo paese, è una follia, insomma, perché voglio dire, certo. Il Teatro Valle non inquina sicuramente, non vale la pena tenerlo chiuso. Diciamo che collegandoci a questo discorso che fai tu, appunto, di hai parlato di aprire, no? Aprire i teatri, parli di festival e andando appunto in una prospettiva del dopo, del domani, nei giorni scorsi una delle proposte, sono state tante diciamo le proposte di cui si è dibattuto, ma quella del regista Gabriele Vacis diciamo ha catturato l'attenzione. La sua proposta è riaprire i teatri. Vi facciamo ascoltare adesso la voce di Natalino Balasso che nel proprio canale YouTube ha letto le parole di questo appello di Vacis, e ne abbiamo scelto un estratto che facciamo ascoltare. Cosa si chiede Gabriele Vacis? Lui dice: d'accordo, adesso stiamo parlando, tutti vogliamo riaprire i teatri, ma facciamoci una domanda: i teatri prima erano aperti? Aprirli, tenerli aperti tutto il giorno, aprirli veramente. Finora i teatri erano chiusi per la maggior parte del tempo. I maestri del Novecento ci hanno insegnato che quello che c'è dietro alla rappresentazione è prezioso quanto lo spettacolo stesso. È l'occasione buona per fare il salto, per realizzare il sogno del Living Theater di Grotowski, di Coppò, di Paolo Grassi, che volevano il teatro come servizio sociale. Diciamo, partirei proprio da quest'ultima frase. Vacis ha poi anche nei giorni scorsi puntualizzato, diciamo, prima di tutto naturalmente la salute, però la sua riflessione resta importante, credo, la funzione sociale del teatro, riaprire, anzi aprire i teatri per davvero. In parte Ascanio ha già risposto, ma vorrei appunto, secondo te, qual è la funzione sociale del teatro? Pronto? Ah, dico io? Pronto? Sì, Ascanio. Io? Sì. Ah, sì, scusa. Ero abituato che la prima mano. No, almeno ti facevo, diciamo, concludere il ragionamento che facevi cambio, prima. Un cambio di campo ogni tanto. No, infatti aspettavo, dico, perché non parlo? Vabbè, allora, devo puntualizzare una cosa. Quando io parlo di aprire teatri, ho fatto l'esempio del Teatro Valle, non parlo nello specifico di riaprirli oggi. Nel senso che la proposta di Gabriele Vacis, di Natalino Balasso, secondo me, dal mio punto di vista, è una proposta validissima in tempi normali, cioè nel senso i teatri, e non particolarmente il Carignano, insomma, ma soprattutto i teatri, come dire, che stanno nei piccoli centri, nelle periferie, svolgono una funzione, infatti non a caso parlavo del teatro anche molto bello, grande, insomma, c'era il San Pier d'Arena, però insomma a Genova è in una zona molto periferica della città, anche se Genova è una città strana che sembra periferia anche al centro, ma insomma, per cui validissimo quello che dice Gabriele Vacis e Natalino Balasso, ma valido anche il 1 gennaio del 2015 come il 1 maggio del 2028, insomma non la vedo per niente in connessione con quello che sta succedendo adesso, tanto più che se, come stiamo dicendo adesso, insomma, stiamo parlando di lavoro e lavoratori, sentire riapriamo i teatri tutto il giorno, il fine settimana, giorno e notte, e io penso con chi li apre questi teatri? Nel senso, volontari di nuovo, cioè nel senso con attori che lavorano giorno e notte, con maschere che lavorano giorno e notte, che prima erano sottopagate e magari adesso anche gratis. Cioè, io credo che in questo momento ci sia da una parte, come dire, ragionare pensando che questa è un'eccezione, cioè nel senso i teatri sono eccezionalmente chiusi e non possiamo fare altrimenti, insomma, con i teatri e con tante altre cose. Strano è quando aprono, cioè, che se lavori alla Fiat, questo magari sì, insomma, è molto più strano, insomma, rispetto alla chiusura di un teatro, perché magari probabilmente questo non è proprio il momento nel quale abbiamo bisogno di una Panda, anche se a metano o di una 500 a energia elettrica, insomma. E ci stanno altre motivazioni che non siano quelle proprio del bisogno di comprarsi un'automobile, una Ferrari per esempio, visto che sapremo che saranno tutti sanissimi i lavoratori della Ferrari. E sì, sì, dico, quindi non c'è questo bisogno adesso, casomai ci sarebbe l'opportunità con l'estate di stare negli spazi aperti e di poter fare spettacolo dal vivo in spazi aperti. A me sembra che in questo momento non ci sia una grande mobilitazione per cercare di portare lo spettacolo dal vivo negli spazi aperti. Mi sembra che ci sia molta confusione in questa fase. Quello che dico è che invece c'è bisogno di capire chi fa questo lavoro, cioè chi lo fa per davvero, incominciare a per esempio partendo proprio dalla scuola, che è un altro, cioè, vuol dire, sarebbe molto importante aprire scuola appunto più che la catena di montaggio della Fiat, e visto che c'è tanto teatro nella scuola, è proprio nella scuola tanto del teatro che viene fatto, è un teatro che noi, del quale noi sì sappiamo dei numeri, ma spesso li diciamo anche un po' a caso, in quel teatro c'è tanto lavoro nero, c'è tanto lavoro fatto in maniera approssimativa, ma non per la qualità, non soltanto per la qualità di chi insegna teatro, chi va a portare il teatro nella scuola, ma perché il teatro viene sempre considerato un po' come, cioè se fuori dalla scuola, se la sera viene considerato come un'alternativa alla pizza, spesso il teatro nelle scuole viene considerato come un'alternativa a religione o alla ricreazione. Allora partiamo seriamente, cerchiamo di fare in maniera che il teatro nella scuola abbia almeno, insomma, venga considerato almeno come la musica, cioè, nel senso, l'insegnante di musica è un insegnante vero e proprio, quello che fa teatro alle volte è bravissimo, ma viene spesso considerato alla stregua di un animatore, insomma. Allora incominciamo dalle scuole a cercare di dare forma a quella che è la presenza del teatro nella scuola. E poi l'altra cosa, ripartiamo dai territori, perché questa cosa, quando parlavo di infrastrutture, di teatri, piazze, eccetera, i teatri e le piazze del nostro paese ci hanno, come dire, sono legati a triplo filo col proprio territorio. Cerchiamo di fare una mappatura di che cos'è il teatro nei territori. Per esempio, i teatri nazionali, che sono distribuiti nel territorio italiano, diciamo, in qualche maniera, perché i teatri nazionali non potrebbero in questo momento fare una mappatura di quello che è il teatro in Italia, di quanti sono i lavoratori, a prescindere dai numeri, ma cioè quelle 30 giornate lavorative alle quali non arrivano molti lavoratori del teatro, perché non ci arrivano? Non ci arrivano perché veramente lavorano 20 giorni l'anno o perché fanno altre cose e dove le fanno e come le fanno? Cioè, nel senso, partiamo dalla scuola, dal lavoro nel territorio e magari arriviamo pure a una sorta di piano regolatore della cultura. Cerchiamo di capire nei territori qual è il bisogno di cultura. Il piano regolatore si dovrebbe fare per l'edilizia, per l'urbanistica, certe volte si fa per quanto riguarda l'assistenza sociale. Cerchiamo di farlo anche sulla cultura, cerchiamo di capire qual è il bisogno di teatro, di musica, di scuole di teatro, cioè cerchiamo di tirarlo fuori da questa ombra nella quale poi tutto si rimescola, insomma, da quello che fa teatro, da quello che fa, diciamo, che è un artista perché per il piacere di essere un artista, da quello che ci campa, da quello che non riesce ad emergere appunto da un indistinto che sta fuori da un'illegalità, e quelli che invece, altra caratteristica italiana, che corrono da nord a sud come pazzi vivendo di una tournée che non finisce mai, insomma. Marco Cacciola, partiamo dai lavoratori, facciamo un piano regolatore del mondo della cultura e del teatro, no? Dice Ascanio Celestini. Diciamo un altro dei temi che Vacis, ma appunto non solo, è già citato, ma non solo, è quello della redistribuzione. E appunto partire dai lavoratori e la redistribuzione di quelli che sono la ricchezza, i redditi che comunque esiste, no, in questo sistema. E l'altro tema che ti chiedo, appunto, in quanto membro di Attrici e Attori Uniti, questo nuovo soggetto, con una base di lavoratori così precaria, come si organizza il dissenso e la protesta, e quali margini ci sono? Allora, mi piace molto il discorso che ha fatto Scagno, innanzitutto, perché da come partivi tu, no? Da questa funzione sociale, no? Cioè, che poi è la ragione ultima, anzi forse la ragione prima, ecco, del nostro lavoro, e che è molto legata quindi all'essere comunità, al fare comunità, o comunque anche a essere attivi nella comunità, nel senso il Coelet, no? Colui che raduna la comunità, ha molto a che fare con il teatro, cioè fondamentalmente da sempre è quello che fa, e questa comunità nasce ovviamente nei luoghi dove si forma e si crea, no? La società a cerchi concentrici. L'idea della scuola è ovvio, è evidente, basta vedere, per chi ha la fortuna appunto di anche di lavorare all'estero, mi capita di vedere che c'è proprio una differenza abissale, e questo lo dà il fatto che è proprio una materia curricolare il teatro, così come diceva Scagno, come la musica. Se si insegnasse musica e teatro, non è che tutti per forza devono diventare pianisti dopo le scuole medie o superiori, ma la musica rimane un elemento fondante, proprio qualcosa a livello di cellula, cioè DNA dentro, e così anche se invece la scuola lega appunto a questa funzione quasi, appunto, cosa faccio? Scherma o teatro? E dopodiché, e l'altra cosa deleteria, porto i ragazzini a vedere degli spettacoli, a parte di una, pallosissimi, perché sono convinto che quello sia il teatro vero, ma quello è un problema, insomma, diciamo, culturale, e soprattutto in orari che non sono giusti. Io sono, per esempio, contrarissimo alle matinee. Per me i ragazzi devono andare anch'io. Cioè, i ragazzi devono andare a teatro insieme agli altri, perché la comunità che si forma anche perché tu non guardi solo il palco, guardo anche il vicino. Io osservo la signora dietro di me che si addormenta, il ragazzino che non si sa perché ha l'occhio invasato di meraviglia, che sembra che abbia visto appunto la donna che ama, e c'è un pezzo teatrale che è tanto erotico quanto la donna che ama. Cioè, questa cosa avviene insieme. Adesso, per non parlare, che è brutto parlare dei propri progetti, ma l'ultimo, che purtroppo avrebbe dovuto debuttare fra 3 giorni qui a Milano, questa mia ultima regia, che era Le rane di Aristofane, il mio lavoro era solo su questo. Cioè, io niente di nuovo, anzi la cosa più vecchia del mondo, come 25 secoli fa, il mio coro sarebbe stato di cittadini e gli attori tre, come si faceva allora. E questo anno e mezzo di lavoro, purtroppo per adesso fermo, si spera che si rifaccia, è stato fatto proprio nelle comunità, grazie anche al Comune di Milano, eccetera, ma nelle comunità, e lì c'è un bisogno enorme, fortissimo. Cioè, le persone, appunto, questo termine che è sempre difficile da usare, normali, come se noi fossimo anormali, hanno un desiderio erotico acceso nei confronti del teatro, che ha questa funzione sociale di assistenza, ma perché banalmente indaga ciò che a tutti appartiene, ciò che è nascosto, impigliato nelle nostre penombre, e dà modo anche di viverlo personalmente. E se questo incontro i ragazzi lo fanno già a scuola, appunto, non solo come oh raga, domani mattina si fa sega perché si va a teatro, ma bensì che fa parte proprio della loro, diventa mattone della loro costruzione, allora automaticamente poi si riverberà sempre più a cerchi concentrici nei propri territori. Però la cosa fondamentale per me, perché a mio avviso, diciamo, Vacis e Balasso erano, secondo me, era più una provocazione visionaria, ecco, perché adesso prima di tutto, appunto, la salute, diciamo, prima di tutto, ma più del fatto che quei luoghi devono essere luoghi aperti e attraversabili costantemente, come avviene peraltro in moltissimi altri paesi in Nord Europa, dove sono aperti dalla mattina alla sera, tu ci puoi stare anche al bar al computer, su internet, ma intanto vedi, dove per esempio al National Theatre ci sono i laboratori per ragazzini, cioè, ma i laboratori, che vuol dire che tu fai oggi, allora Francesco fa il light designer, Ascanio si occupa dei costumi, quella, e fanno in micro la creazione di una produzione. Ma sai che passione nasce in loro? E poi dici, perché sono sempre pieni i teatri in Inghilterra? Cioè, anche per queste cose, non perché siccome abbiamo Shakespeare allora andiamo tutti a teatro, cioè, questo però appunto il concetto sta nel fatto che questi osservatori regionali, perché questo dovrebbero essere i nazionali, degli osservatori regionali che davvero si ramificano nei loro territori, perché hanno cercato di fare nel 2014 questo pessimo decreto, e diciamoci, ogni tanto bisogna anche dirlo, questo pessimo decreto Franceschini, che ha cercato di fare la riforma alla tedesca con i soldi della Basilicata, cioè di creare questi giganti che in realtà succhiano un sacco di soldi, perché finiscono negli uffici e poi sul palco si stringe l'imbuto e ci finiscono poche gocce, quindi la produzione vera, cioè l'unica cosa che dà senso a quegli osservatori, è relegata agli ultimi posti, e questa già è ridistribuzione. Perché? Perché deve essere perché ci devono essere questi stipendi così alti della dirigenza, peraltro senza nessuna responsabilità, nel caso in cui lasciano buchi di milioni, come avviene, e salutando e dicendo vabbè, pace ragazzi, ci vediamo alla prossima, e si spostano in un altro teatro così grande. Questa ridistribuzione riguarda anche e soprattutto i territori. Cioè, tu stai in Umbria, ci sono tanti di quei posti pazzeschi, teatrini meravigliosi, borghi dove si fa teatro, musica e tutto il resto, e lì lavorare ti permetterebbe innanzitutto davvero in maniera tutelata, sicura, gli spazi, il distanziamento fisico, eccetera eccetera. Ma se prima a ricominciare, come vogliono, sono solo le grandi strutture, che banalmente, come la richiesta che hanno fatto Agis, che oggi ha incontrato il ministro, è solo, e l'hanno proprio dichiarato, per riaprire gli uffici, perché almeno ritorniamo agli uffici, poi vediamo la produzione, perché ovviamente il comitato tecnico scientifico ha detto che gli attori e i musicisti devono comunque recitare e suonare con le mascherine e i guanti, che è una cosa che, cioè, già uno pensa, ma questi del comitato tecnico scientifico una volta a teatro ci sono andati nella vita, o boh, sono stati sempre solo a casa loro, hanno visto due serie Netflix e hanno detto ma forse sì, scusami mi dilungo. La redistribuzione è importante nel come lo fai nei territori, e nel fatto che, non lo so, vogliamo dare delle regole come in Francia o come in Inghilterra, che la paga massima deve essere massimo 5 volte la paga minima di una compagnia? Vogliamo capire che questi luoghi hanno dei doveri, cioè che più fondi pubblici prendi è maggiore il tuo dovere, non il diritto. Dovere, che i parametri esistono e li devi rispettare, tra cui il fondamentale, che devi rispettare i contratti collettivi nazionali dei lavoratori. Va bene, io mi scuso che ti sono un No, po' hai ragione, era salito sopra, passione, ma ma purtroppo abbiamo dei bene. tempi strettissimi, adesso si sta per interrompere, diciamo, la nostra trasmissione. Quindi io ringrazio tanto i due ospiti, Ascanio Cenestini e Marco Cacciola. Grazie a voi. Grazie mille, grazie. Grazie agli ascoltatori e ci sentiamo alla prossima puntata di Radio Lorem. Non è felice. Avete ascoltato Oltre le Quinte, puntata di Radio Lorem dedicata al mondo del teatro. E a proposito di teatro, nelle ultime settimane nel mondo sono andate in scena storie di fantascientifici sceriffi western a caccia di piccole taglie, in cerca di nuovi criminali colpevoli di fare cose normali. Parliamo delle multe figlie dell'emergenza coronavirus. Questo è Spaghetti Western. Io stavo andando a fare la spesa nel supermercato più vicino a casa, con passo veloce, vestita sportiva. Mi hanno dato una multa dicendo che facevo jogging. Sì, mi sembra fuori dal mondo dover essere multata per una mia esigenza primaria, che è quella di andare a fare la spesa. Praticamente stavo andando in chiesa a circa 200 metri di distanza da casa, ero seduta che aspettavo l'apertura della chiesa, che era alle 3 e un quarto. In quel momento, quando mi stavo alzando, cioè alle 3 e 16, è arrivata una pattuglia della polizia municipale che mi ha detto se per favore potevo andare a casa. Ho detto sì, vado a casa, però prima passo dalla chiesa. Quando ho fatto questa osservazione, il vigile urbano mi ha detto: guardi, lei non può andare in chiesa. Allora ho chiesto: ma perché non posso andare in chiesa? E lui mi ha detto: se me lo domanda ancora, io sono costretto, mi fermo e le faccio il verbale. Ho detto: scusi, ma le sto facendo una domanda semplice, cioè volevo avere dei chiarimenti, perché la normativa a cui facevo, che sapevo io, che conoscevo io, permetteva di andare in chiesa. Infatti c'erano altre persone. Ho detto: vede, ci sono altre persone che vanno in chiesa. Allora, se continua così, io mi fermo e le faccio il verbale. Mentre scriveva il verbale, erano in tre, io ho continuato a fare riferimento alla normativa e lui continuava a dire che io in chiesa non potevo andare, che la chiesa era aperta perché il parroco fa quello che vuole perché è casa sua, ma io in chiesa non ci potevo andare e che non potevo neanche dire se gli altri andavano in chiesa che lui doveva fare la multa, perché lui faceva la multa a chi gli pareva e piaceva. Mi ha letto quello che aveva scritto nel verbale, e cioè che io ero sulla panchina a prendere il sole. E allora io a quel punto ho detto: scusi, oramai lei ha già scritto tutto quanto, già firmato dai suoi colleghi, questa è una vigliaccata, proprio vigliaccata, ho detto, perché io non stavo prendendo il sole, lei lo sa benissimo. Ho chiesto soltanto perché non potessi andare in chiesa. Mi ha permesso di scrivere appunto la mia teoria, solo che logicamente è la mia parola contro la loro tre. Penso che sia proprio stato un abuso di ufficio e mi dispiace molto. Sono un militante del Centro Sociale Gabrio di Torino, aderente al collettivo SOS Spesa, un progetto che portiamo avanti come centro sociale insieme ad alcuni abitanti del nostro quartiere. Facciamo una raccolta spesa davanti ai supermercati e al centro sociale in determinati giorni e poi ogni sabato facciamo una distribuzione di pacchi di beni di prima necessità raccolti. Giorno di raccolta davanti al supermercato mi sono allontanato per andare a volantinare, anzi ad attaccare dei volantini sui pali in una piazza che sarà a circa 300 metri dal supermercato in questione. Mi sono praticamente ritrovato in una retata composta da due jeep dei carabinieri e due volanti che che ha chiuso questa piazza, ha cominciato a controllare tutte le persone che si sono trovate lì in quel momento, tra cui io. Ho fornito i volantini che stavo attaccando, avevo lo scotch in mano, quindi era evidente l'attività che stavo svolgendo. Quando hanno visto il nome del centro sociale, insomma, sono stato messo da parte e controllato per ultimo. Hanno cominciato con accuse del tipo: non ci raccontare balle, tu sei dei notav, non c'entrati niente con la solidarietà, non ti ascoltiamo neanche. E hanno cominciato ad accusarmi di essere lì per acquistare / vendere delle sostanze stupefacenti. Sono stato portato in caserma per accertamenti. Una volta in caserma sono stato fatto spogliare, sono stato fatto fare dei piegamenti per controllare che non avessi della sostanza nascosta negli anfratti. Dopodiché mi è stata data la multa. La mia esperienza, diciamo, non fortunata è capitata a Giugliano, in campagna, in provincia di Napoli. Io sono un medico e in pratica la mattina del 24 marzo, abitando praticamente in aperta campagna, stavo facendo jogging sotto casa, ero a 100 metri, 90 metri da casa. In pratica passa questa volante della polizia, mi dicono che in campagna non è possibile fare jogging e che chiaramente devo essere sanzionato, multato. Provo ad appellarmi un po' al buon senso della polizia, spiegandogli che chiaramente, abitando da solo, chi potevo contagiare? Le piante. Non mi viene data nemmeno l'opportunità di salire sopra, che ero praticamente lì, ci avrei messo 30 secondi a prendere i documenti, però nulla, cioè vengo anche abbastanza aggredito verbalmente. Mi danno chiaramente questo verbale più l'isolamento. Faccio scrivere a verbale che in realtà io stavo sostituendo un collega di medicina generale e che in realtà non posso rispettare questo isolamento. Quello che ha reso ancora più grottesco quella situazione è che questa gente non teneva nemmeno la mascherina poi sul naso, cioè aveva il naso praticamente scoperto. Ho provato a contattare pure il comando per avere chiaramente la possibilità di non essere sanzionato, ma non c'è stato alcun modo, perché erano super impegnati, anche se poi hanno fatto filtrare anche la notizia sui giornali che un presunto medico, diciamo runner, non rispettava la legge. Eravamo io, mia moglie e i miei due figli. Ogni due settimane andiamo a Pisa perché per le visite di controllo per mia figlia, perché ha fatto il trapianto di midollo osseo per una leucemia. È successo che al ritorno ci hanno fermato. Come ho spiegato alla polizia, andiamo tutti insieme anche perché, prima di tutto, per un motivo psicologico, perché la bimba siamo stati separati tanto da luglio, dal 17 luglio praticamente. Mia moglie non si sente di guidare perché è neopatentata, non ce la fa a fare Grosseto Pisa, è anche pericolosa. Quindi la bimba con me ci viene, se la forzo ci viene, ma insomma è più contenta se sta con la sua mamma, perché questi mesi è sempre stata in reparto con la sua mamma, anche in trapianto. La mamma gli ha donato il midollo, quindi gli ho dato queste motivazioni. Non gli sono andate bene alla polizia. Appena ci hanno visto in quattro, la prima cosa ci hanno detto: ah, voi in quattro non ci potete stare, cioè non si può andare nemmeno a controlli insieme, che si è fatto di male? Si è ammazzato qualcuno, si è rubato, ah, voi in quattro non ci potete stare. Allora io molto tranquillamente gli ho spiegato la situazione. Quello che non mi piace è che loro ti dicono: non ci potete andare, e poi vanno lì, mi dia tutti i documenti, tutto. Scrivono, stanno lì, scrivono, e poi quando hanno già scritto il verbale vengono lì e ti dicono: io gli devo fare il verbale, dimmelo prima, no? Così magari anch'io ho modo di metabolizzare e di spiegartelo meglio. Allora, lunedì 3 16 aprile 2020, giorno di Pasquetta, io e il mio compagno abitiamo in un parco privato a Napoli. All'interno del parco ci sono quattro palazzine. In una di queste vive una coppia di amici. Quel giorno il ragazzo della coppia che conosciamo all'interno del parco ci propone di prendere una birretta al sole a debita distanza all'interno del parco. E quindi noi decidiamo di andare sulla terrazza condominiale per un paio d'ore, fin quando a un certo punto passa su di noi un elicottero, ma passa semplicemente e poi va via. Stavamo decidendo appunto di andare via da lì a 10 minuti, ma improvvisamente arrivano due poliziotti. Arrivano due poliziotti e ci dicono che noi non potevamo effettivamente essere lì, perché stavamo violando la quarantena, in quanto bisogna proprio uscire di casa, intesa proprio come porta di casa, solo per appunto motivi urgenti, spese, eccetera. Avevamo violato questa quarantena e quindi loro dovevano multarci. Noi naturalmente, insomma, abbiamo spiegato che siamo tre coppie dello stesso parco, che aprono lo stesso cancello, prendono gli ascensori, insomma, ma loro non hanno voluto sentire ragioni e hanno multato ognuno di noi. Cioè, le conseguenze di questa multa, al di là del valore economico, era anche una quarantena fiduciaria, per cui non scendere neppure il cane a fare la pipì, non poter andare a fare la spesa neppure sotto casa. Quindi chiaramente abbiamo dovuto farci consegnare la spesa a casa. Il cane, ahimè, insomma, poverino, ha iniziato a farlo nella traversina, questo per 15 giorni, senza farci un tampone, senza essere effettivamente certi del fatto che noi ci fossimo contagiati in quel momento, perché in teoria la regola voleva che l'ASL ci chiamasse all'interno di questi giorni, sarebbe entrata nel penale, per cui noi naturalmente siamo a casa con le difficoltà per essere saliti sulla terrazza condominiale a debita distanza e prenderci una birretta.